sono felice. Chiedimi se vedo una luce. Chiedimi se ho più respiri. Chiedimi se sento una voce. Chiedimi se trovo mai pace. Se le mie rughe sono profonde. Chiedimi se parlo agli specchi. E se mai qualcuno risponde. Chiedimi se ho voglia di uscire. Oppure di ballare. Chiedimi se mai troppo tardi per guarire da tutti i sogni. Chiedimi se voglio fuggire da struggimenti e inganni. Chiedimi se amo la gente, oppure no, non mi importa proprio niente. Chiedimi se anch'io tanti amici, se credo nell'amore. Chiedimi se forse un errore volere tanto e non desiderare. Chiedimi se questa è la fine o se sto già per partire. Chiedi se sarà spero di tornare e forse capirai anche queste mani che hanno cercato invano di afferrare il vento. Forse non basta uno sguardo solo a spalancare un po' di cielo. Se ho paura di volare e forse le frasi che oramai non so che dire. E forse se non trovo il coraggio o se riesco a guardare in questo abisso. Se ho paura di cadere. Chiedimi se il mondo è reale. Questo ha una ragione. E anche se quale importanza possa avere, chiedimi. Chiedimi se vuotora la stanza di questa fredda stamberga in una sperduta e buia trazzera. Ma lascia che il cuore mi illuda d'essere davvero qui con te stasera. Chiedimi come.